224. Fritto alla Garisenda. Signore, se vi dilettate alla cucina, non mettete questo fritto nel dimenticatoio, perché piacerà ai vostri sposi, e per gli ingredienti che contiene, forse sarete da essere meritate. Prendete pane raffermo, non troppo spugnoso, levategli la corteccia e tagliatelo a mandorle o a quadretti di 4 centimetri circa per ogni lato, tutti di un'eguale misura. Distendete sopra ad ognuno prima una fetta di prosciutto grasso e magro, poi fettine di tartufi e sopra a questi una fetta di cacio gruyera. Coprite il ripieno con altrettanti pezzetti di pane che combacino, premendoli insieme perché stiano uniti, ma tagliate ogni cosa sottile onde i pezzi del fritto non riescano troppo grossolani. Ora che lo avete preparato, bagnatelo leggermente con latte e ghiaccio e quando lo avrà assorbito, tuffate ogni pezzo nell'uovo frullato. Indi nel pan grattato, ripetendo due volte l'operazione, onde anche gli orli restino dorati e chiusi. Friggetelo nel lardo o nell'olio e servitelo solo o misto a qualche altro fritto. 225. Cervello, animelle, schienali, testicciola, eccetera. Per questi fritti vedi la pastella per fritti di carne numero 157.